cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Appassionati di noir, drizzate le antenne, prendete subito carta penna, insomma dovete prendere appunti. Si intitola 31 notti, l'ha scritto lo spagnolo Ignacio Escolar, pubblicato da Marcos y Marcos con la traduzione in italiano di Gina Maneri. L'autore è un giornalista, blogger famosissimo in Spagna, il suo account Twitter è fra i più seguiti. Ha fondato il quotidiano Pubblico, ora dirige eldiario.es. Ma veniamo al romanzo che ha scritto. Allora, come dice il titolo, 31 notti. Questo noir è diviso in 31 capitoli, cioè le 31 notti vissute dal protagonista. La voce narrante è un giornalista di cronaca nera che tutte le notti frequenta una discoteca a Madrid. Qui incontra un poliziotto corrotto, un buttafuori, una barista affascinante, insomma tutti gli ingredienti del noir tradizionale. L'autore Escolar ha preso spunto da storie vere, quindi fatti di cronaca, e le ha poi romanzate. Ne è uscito fuori un bel noir, appassionante, pieno di ritmo, che ci fa immergere in una Madrid nera, anzi nerissima. Sentiamolo. Hay mucho de mí en el personaje protagonista, perché la prima entrega de... Beh, c'è molto di me nel protagonista, e anche perché questo romanzo, in realtà il primo capitolo, è uscito a puntate e per il giornalista. Il Pubblico, per cui lavoravo, ed era ovviamente una versione per un supplemento estivo, e quindi io giocavo molto con i miei lettori, perché d'altra parte conoscevano il mio nome, io scrivevo di politica su quel giornale, e quindi mi piaceva pensare che potessero credere che il protagonista fossi io, anche se non ho messo ovviamente il mio nome, però appunto potevano immaginare i lettori. Siamo simili in alcune cose, in altre no, per esempio io non sono morto. Diciamo subito dunque che il giornalista muore, perché tu stesso lo scrivi a pagina 17, dicendo: è stato Alec a presentarmi il mio assassino, ma non gli serbo rancore. Insomma, questo è un romanzo noir giallo dove si sa fin dall'inizio che la voce narrante in realtà muore. E devo dire che la prima scena è anche abbastanza inquietante, perché c'è una stanza foderata con, diciamo, il cellophane, la pellicola trasparente, e al centro di questa stanza c'è un bidone di acido solforico. A cosa mai potrà servire questo bidone di acido solforico? L'aneddota dell'acido solforico con la che arranco la novella è una storia reale. Sì, in realtà l'aneddoto dell'acido solforico che c'è all'inizio della storia è un aneddoto reale. Era appunto nell'anno 2009, l'estate del 2009, quando io scrivevo per Il Pubblico, ed è uscita questa notizia. Sono arrestato della polizia, che in una casa di narcotrafficanti avevano trovato una stanza con il cellophane e con al centro un bidone contenente dell'acido. E quindi come aneddoto mi è servito poi per sviluppare tutto il resto del romanzo. Che mi sirvió per una novella intera. Era tan inquietante la imagen che tutto lo demás iba solo. Ma diciamo che in quest'acido solforico, insomma, i narcotrafficanti ci scioglievano i cadaveri. Sì. Era inevitabile che avesse un cadavere, però nell'aneddoto reale... Era inevitabile che lo utilizzassero per un cadavere, però in realtà nell'aneddoto reale non c'era nessun cadavere, quindi l'acido solforico non era stato utilizzato, quindi non c'era nessun segno di crimine, la cosa era ancora più inquietante. Era tuttavia il morto e l'assassino, però con tutto preparato e sparandole. È decisamente molto più inquietante, infatti leggendo questo 31 notti vi assicuro che si finisce ogni piccolo capitolo e vi invoglia subito di leggere il successivo per capire che cosa succederà. E noi possiamo raccontare alcune cose che succedono. Tutto si svolge a Madrid in estate, soprattutto all'interno di una discoteca che viene frequentata da questo giornalista, e dove c'è Alec, che è un buttafuori polacco, e in questa discoteca il giornalista conosce Velasco, che è un poliziotto, insomma, corrotto. In seguito ad una serie di avvenimenti finirà per essere coinvolto, insomma, in una guerra fra bande di narcotrafficanti messicani e colombiani. L'immagine della Madrid notturna che ne esce fuori è veramente molto molto nera. È effettivamente così o hai giocato di fantasia? Yo creo que Madrid es una ciudad muy segura, se puede ir perfectamente de copas, tanto más que mi periodista, sin que te... Credo che in questo momento Madrid sia una città molto sicura, uno può uscire a bere quanto vuole, anche più del mio protagonista volendo. Un tempo però è vero che tutta quella zona del divertimento era in mano a una rete di narcotrafficanti ed è anche vero che spessissimi narcotrafficanti utilizzavano i buttafuori, che era l'ingresso, per controllare poi lo spaccio all'interno delle discoteche. Come giornalista poi faccio fatica a usare la fiction, quindi ho preso spunto da mie esperienze, per esempio in Messico, a Culiacán, che è una delle città più pericolose del Messico, da cui parte la cocaina destinata agli Stati Uniti, prima invece veniva prodotta marijuana. E tra l'altro poi ho lavorato, prima di occuparmi di politica, anche come giornalista di cronaca, e quindi le storie che ascoltavo mi servivano poi per essere trasposte in un romanzo. E si è lavorato come periodista di successi, tutte queste storie al finale acabano. È facile che acaben desembocando in una novella nera. Durante queste 31 notti che vengono appunto passate nella discoteca di Madrid, ci sono degli strani rapporti, delle strane relazioni fra il giornalista Alec il buttafuori e Velasco il poliziotto. A volte sembrano essere amici, a volte invece si capisce che uno cerca di fregare l'altro. Insomma, che relazione c'è fra i tre? Es una relación a tres muy difícil, ¿no? Porque por un lado el periodista es el intruso en una vieja amistad, el policía corrupto y es una relación a tres molto difficile, anche perché il giornalista in realtà è un intruso in questa vecchia amicizia tra il poliziotto corrotto e il polacco, e oltretutto il giornalista è il narratore, quindi quello che ricostruisce l'amicizia. Non vorrei appunto rovinare la trama del romanzo, però le relazioni cambiano continuamente nel romanzo, e però la grande incognita che rimane al morto è appunto chi è stato suo amico e chi no, insomma chi l'ha tradito e chi no. Todavía il proprio protagonista, después de muerto, sigue sin explicárselo. In questo romanzo ti togli anche qualche sassolino dalla scarpa, insomma, sul nostro mestiere, su quello, insomma, sui giornalisti. Veniamo tanto criticati in Italia, ma mi sa anche in Spagna, da quello che ho letto anche ho percepito nel tuo romanzo. A un certo punto fai dire al giornalista, al protagonista: questo è il mestiere delle 3D, dipsomani, quindi insomma ubriaconi, mettiamoli così, alcolizzati, depressi e divorziati. Noi che facciamo questo mestiere moriamo calvi, soli e di cirrosi, però almeno la mattina possiamo dormire. Insomma, ma è ancora così in Spagna l'immagine del giornalista? Insomma, mi sembra un'immagine un po' retro del vecchio giornalista, appunto ubriacone, gli unici che giravano di notte per le strade. Sì, certo, è un archetipo di periodista antico, soprattutto. Sì, in realtà utilizzo un vecchio archetipo del giornalista. Più che Madrid, tra l'altro, parla della stampa locale. Io avevo lavorato ad Almeria e lì sì che appunto ci si svegliava tardi, ma anche perché la redazione chiudeva tardi. Oltretutto c'era una redazione e si andava in stampa nello stesso edificio, quindi spessissimo si chiudeva tardi perché si aspettavano i risultati sportivi. Ovvio che ormai non è più così, e non era così neanche quando io ero ad Almeria, però c'erano dei vecchi giornalisti che mi raccontavano di quei tempi in cui appunto non c'era giorno che tornassero a casa senza prima essersi fermati a bere qualcosa, no? Quindi è parte della storia, anche se oggi a me non succede più perché lavoro ormai nell'ambito del digitale, non più sulla carta, quindi abbiamo altri ritmi. Io ora lavoro in internet, igual che nella radio, se madruga moltissimo, al revés, e se trasnoccia relativamente poco. Io sono anche astemia, pensa te, quindi insomma come giornalista di vecchio stampo proprio non valgo nulla. Allora Ignacio, tu sei appunto anche un blogger, uno dei blogger più seguiti in Spagna. Che cosa c'è nel tuo blog? Pues mi blog si chiama escolar.net, escolar.net. Il mio blog, che si chiama escolar.net, che è il mio cognome, è stato aperto nel 2003 ed è stato uno dei primi blog in Spagna e parlava di politica. E tra l'altro ho cercato di creare un mezzo di comunicazione ed è seguito all'incirca da 500.000 di lettori al mese, quindi ho più pubblico di altri mezzi di comunicazione convenzionali in Spagna. Io prima ero un giornalista che si occupava di internet, tecnologia e anche di cronaca. Però nel tempo libero ho cominciato a scrivere di politica e mi sono ritrovato specializzato in quell'ambito, perché hanno cominciato a chiamarmi da altri posti per scrivere di politica e quindi ho finito a preoccuparmi di stampa politica. È curioso, il lobby del blog mi ha portato a fare tutt'altro, no? È curioso perché alla larga il blog acabo cambiando mi carrera, no? Io iba dirigido hacia un área y por el hobby del blog, que empezó siendo algo que hacía ratos muertos, acabé siendo otro tipo de periodista. Ma perché un giornalista come te, appunto esperto anche di politica, hai fatto diverse cose nella tua vita, come primo libro, come primo romanzo, insomma, decide di fare una cosa così pulp? Io credo che la razón por la cual me dio por el género negro es primero porque había trabajado antes en los sucesos, ¿no? La razón por la cual he scelto el noir es sobre todo que he colaborado. Appunto mi sono occupato di cronaca e tra l'altro c'era quell'aneddoto della stanza di plastica che mi ha invogliato ovviamente a scrivere il romanzo e poi è stato quasi un modo per riposare, per staccare. Io ero stato direttore del Pubblico, ma quando poi mi sono ritrovato come semplice giornalista il direttore mi ha detto durante l'estate: perché non fai qualcosa di diverso? E allora per rilassarmi mi è venuta in mente questa storia di appunto buttafuori e poliziotti corrotti. E tra l'altro poi il noir è un genere che mi piace molto ed è anche congeniale a noi giornalisti, perché ci sono due aspetti che ci interessano molto: l'umano, l'aspetto umano, quindi ovviamente rientra, e poi si può scrivere del romanzo sociale, quindi per denunciare cosa succede nella città. Ho in progetto un altro romanzo e quello sarà effettivamente sui politici, sull'ambito politico, quindi qualcosa che mi è più abituale. E però il problema è che per quanto io cerchi di nascondere certe cose, ci sarà sempre qualcuno che vorrà scoprire a chi mi sto riferendo, a cosa mi sto riferendo. Por mucho que camufle lo que cuente como ficción, habrá quien quiera ver quién es cada uno de los personajes en el mundo real de la política de los que me inventé en la novela. Grazie allora Ignacio Escolar, ora in libreria in Italia con 31 notti, pubblicato da Marcos y Marcos. È un noir, un giallo, io l'ho definito anche un po' pulp. Sono 150 pagine che veramente si leggono tutte d'un fiato. La copertina, neanche a dirlo, è rossa, rosso sangue. C'è un calendario con il passare dei giorni, 15, 17, 28, e un coltello. Vabbè, ma insomma è l'acido solforico quello che inquieta più di tutti. Grazie Ignacio e grazie alla traduzione di Simone Cattaneo. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta tutte le domeniche alle 17, dopo la fine delle partite, arriviamo noi per raccontarvele, farvi sentire. C'è anche la musica, c'è anche la musica. Cioè, siamo venuti a dare fastidio a Capuano. Sei sempre tu. Io continuo a dare i risultati, a sentire gli ascoltatori, avere grandi ospiti. Una poi, se voi ci siete. Da mediano, perché ospiteremo sia i mediani che però anche i trequartisti, i registi e i grandi protagonisti del calcio e dello sport. Ci sono anche gli altri sport. Sì, ci sono anche gli altri sport, ma i numeri 10 e le bandiere non esistono più. Sì, altri sport con moderazione. Anche le mezze stagioni. Tutti convocati in weekend, tutte le domeniche alle 17. Ciao a tutti, sono Alex Del Piero, anche in India qua sul Gange ascoltiamo la domenica pomeriggio, tutti convocati weekend. C'è anche il mio passerotto. Ciao. Il cacciatore di libri. Un buon non compleanno a me. A chi? A me. A te. Un buon non compleanno a te. A me. Sì, a te. O a me. Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti tanti auguri. Alice nel Paese delle Meraviglie ha compiuto 150 anni. Ci sono stati grandi festeggiamenti alla Fiera del Libro per bambini e ragazzi che si è tenuta la scorsa settimana a Bologna. In effetti il romanzo di Lewis Carroll è un po' un romanzo senza tempo e molto amato da tante tante generazioni, anche più livelli di lettura, diciamo, si può leggere da bambini ma lo si può leggere tranquillamente anche da adulti. Per festeggiare Alice ho scelto però un libro un po', diciamo, diverso dai soliti. È un piccolo libro, sono un centinaio di pagine, in cui fra i vari protagonisti si immagina anche un'Alice contemporanea. È appassionata di cucina, fa la food blogger ed è ovviamente maniaca di Twitter. Questo è solo uno dei personaggi che compare in questo piccolo libricino che si intitola Romeo e Julien, scrittori e personaggi fra Fornelli e Webb, scritto da Antonella Gigante con la collaborazione di Francesca Mastrovito. Allora, l'autrice ha preso alcuni personaggi della letteratura, Alice appunto, ma poi c'è Madame Bovary, il barone Lamberto, ci sono Romeo e Giulietta, insomma c'è un filo che li unisce, la passione per il cibo e la cucina. Sentiamo Antonella Gigante. Alice, io ho immaginato che possa essere una food blogger proprio perché Carol, in realtà, parlando del suo romanzo, dice: questo non è un romanzo, questo è puro zucchero. Il libro è pieno di dettagli, di piccoli dettagli culinari, di piccoli tesori nascosti nelle pagine. Alice non si muove verso un altro capitolo, un altro personaggio, quindi un'altra delle sue avventure, senza prima cedere alla tentazione di addentare un biscotto, di bere una bottiglietta su cui c'è scritto Drink Me, senza prima mordere un fungo che probabilmente la farà cambiare di dimensione. Il cibo diventa proprio all'interno dell'opera di Carroll lo strumento attraverso cui mandare avanti la narrazione, ma anche descrivere la protagonista e gli snodi narrativi proprio della storia. In questo libro tu hai immaginato appunto un'Alice contemporanea che, per esempio, continua a trangugiare biscotti e a rispondere ai tweet senza accorgersi che andava rimpicciolendosi sempre di più. Insomma, tu hai portato personaggi noti della letteratura, da Madame Bovary ad Alice al barone Lamberto, li hai immaginati come se vivessero oggi e fossero circondati dai social network. Ma hanno tutti la passione per il cibo, questi personaggi? Hanno tutti la passione per il cibo, perché studiando mi sono accorta che questi personaggi ce l'hanno davvero, così come ce l'avevano gli autori. Quando Ulisse incontra Polifemo, appunto, per citare ancora una volta il fondamento della letteratura occidentale, Ulisse lo trova che sta facendo il formaggio. Noi vediamo Polifemo per la prima volta mentre sta cagliando il latte con maestria, dice Omero. E io ho provato a giocare, perché poi l'ironia è una cosa che mi caratterizza e che spero, insomma, credo che in questo momento sia molto importante per tutti. Non prendiamoci mai troppo sul serio, cerchiamo sempre di ridere e di sorridere di noi. Quello che io ho cercato di fare è affrontare un tema serio, secondo me, come quello dell'interrogarmi su che cosa sarebbe successo se la grande letteratura vivesse oggi, se questi grandi autori vivessero adesso. In altre parole, i social, la rete stanno modificando il nostro immaginario e sicuramente modificheranno la letteratura del futuro. Noi questo non possiamo saperlo, però possiamo divertirci, sperare che questi autori non se la prendano e provare a immaginare che cosa sarebbe successo se davvero Madame Bovary o Virginia o Mrs. Dalloway o Ulisse, appunto, avessero avuto a che fare con questi social. Infatti c'è una parte che mi piace particolarmente, per esempio, di Madame Bovary. Tu l'hai immaginata che durante il suo periodo di depressione lei avesse avuto un periodo di, come dire, shopping compulsivo su Amazon. Quindi, insomma, una Madame Bovary riportata ai giorni nostri, anche con i suoi amori, i suoi problemi anche di solitudine, il barone Lamberto che sta lì a guardare quanti tweet gli arrivano per cercare di colmare la sua solitudine. Ma in questo libricino ci sono anche alcune ricette, sì, che hai, immagino, liberamente tratto dalle storie dei tuoi personaggi letterari. Sono delle ricette ispirate, quindi abbiamo il risotto del brucaliffo, appunto, per augurare ancora una volta buon compleanno ad Alice per i suoi 150 anni, che è un risotto fatto con del tè al posto del brodo. Non c'è burro e non ci sono prodotti animali, perché io sono anche una cuoca e la mia cucina è una cucina naturale, e quindi ho cercato anche di far star bene attraverso queste cose, immaginando. È un risotto fatto appunto con del tè, dei funghi e dei mirtilli. Quindi abbiamo provato a giocare con queste ricette. Queste all'interno del libro sono delle ricette liberamente ispirate, mentre quello che facciamo sul sito, su www.romeojulien.com, mescola delle ricette liberamente ispirate ai personaggi che ci hanno affascinato con delle ricette invece originali, che io, una ricerca per la quale passo molto tempo nelle biblioteche, negli archivi, ricercando le ricette originali, per esempio del pane di Virginia Woolf, dei biscotti di Emily Dickinson, appunto delle ricette d'autore. C'è una grandissima passione per Virginia Woolf, lo sì. Si capisce perché lo dici proprio nel, insomma, nell'introduzione di questo piccolo libricino, e c'è a un certo punto una frase, credo che alla fine dici, a un certo punto lei ha finito, mette da parte le sue bozze di libri, sì. È contenta perché finalmente può preparare dei panini. Esattamente, è proprio così. A un certo punto della sua vita lei dice ad un'amica: io ho una sola grande passione nella vita, cucinare. E quando lei finisce, e questa cosa è stata appunto come tutte le fatiche di un libro, poi ci sono le bozze, e lei dice: finalmente ho finito queste bozze e oggi pomeriggio preparerò questi scones. Lei è contenta per questo, perché la materialità dell'impastare, del cuocere una torta, i gesti rituali che ci riconciliano, no? con quello che siamo davvero, cioè fondamentalmente corpo, per me è una cosa molto importante in questo momento in cui passiamo la maggior parte della nostra giornata a pensare di essere solo testa, a pensare di essere appunto soltanto in questa parte alta, mentre noi siamo in tutto il resto. E anche lei, che pure per me sì è un punto di riferimento importantissimo nella mia letteratura, anche nella mia vita adesso, perché io vivo a Cambridge da un anno, e Cambridge è la città in cui lei ha scritto Una stanza tutta per sé, interrogandosi quindi sul rapporto della scrittura e le donne. E io sì, la sento in tante cose. E lei dice un'altra frase che per me è illuminante nella letteratura come nella vita. Lei dice: fluisco pur restando radicata, che per me è una frase che in questo momento storico in particolar modo ha un gran valore, perché nella cucina, come nelle ricette, come nella lettura, come nella vita di ogni giorno, noi dobbiamo continuare ad andare avanti, però senza dimenticare quello che siamo davvero. E quindi essere radicati in noi vuol dire questo: cambiare, ma non dimenticarci di chi siamo davvero. Un po' come i miei Romeo e Julien, che cambiano rispetto all'originale, assolutamente. Ma perché io appunto gioco con questo Romeo twittatore, con questa Julien ribelle, no? Contro la famiglia. Quindi in quel periodo si mangiava tantissima carne, i nobili si distinguevano, e Shakespeare lo dice anche molto bene. I nobili si distinguevano nelle mense perché avevano molta carne, arrivava anche dello zucchero, ma la carne era quello che distingueva il pranzo del povero dal pranzo del ricco. E la mia Julien, che è ribelle perché vuole sposare Romeo e poi alla fine ci riesce, insomma, è una vegetariana, e quindi bisogna essere ribelli e quindi radicati in se stessi, pur fluendo, pur continuando ad andare. E per essere aggiornati sulle cene a tema organizzate da quest'autrice, da Antonella Gigante, un po' in tutta Italia, le ricette e tutto quanto riguarda appunto questo libro Romeo e Julien, si può andare sul sito Romeo e Julien, scritto julienne.com. E anche per oggi è tutto, grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate questa puntata in podcast a radio24.it, mi trovate su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.